corre sul confine, come ragnatela lungo il letto del fiume. Filo svinato bussa alla tua porta per annunciare che la libertà è morta. Filo spinato come foglie d'autunno, gocce di veleno sul tuo figlio più bello. Filo spinato rosso di vergogna, sentiero stretto, lama nella gola. Ma com'è duro questo nostro tempo, segna la pelle come freddo cemento. Com'è duro questo andare avanti, ci uccideranno se non stiamo attenti. Attenti. Filo spinato sulle nostre coscienze, che ormai non vedono e non sanno più niente. Filo spinato nella nostra testa, che prima o poi dovremo dire basta. Filo spinato di lontana memoria, sempre uguale, stessa identica storia. Filo spinato come religione, sbarre alle finestre di questa prigione. Ma com'è duro questo nostro tempo, segna la pelle come freddo cemento. Com'è duro questo andare avanti, ci uccideranno se non stiamo attenti. Filo spinato corre sul confine, filo spinato lungo il letto del fiume. Filo spinato come foglie d'autunno, gocce di veleno sul tuo figlio più bello. Sul tuo figlio più bello.